Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. E anche di Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato, che saluto, che è dietro al vetro in regia. C'è qui con me Marco Bellinazzo, ciao Marco. Ciao, buon pomeriggio a tutti. C'è Pierluigi Pardo al telefono, ciao Pier. Ciao. Allora, ci siete anche voi, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, chiamate, prenotatevi fino alle 15, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Partiamo veloci, dai, bollettino di mercato a 33 ore scarse dal gong di domani, che non vediamo l'ora. Allora, oggi è il giorno di Ouedes, visite mediche in questi minuti, poi firmerà e ci sarà l'annuncio presumibilmente dopo le 17 a borse chiuse. La Juventus non molla Spinazzola, che non si è ancora arreso all'idea che dovrà restare all'Atalante, quindi sotto traccia in questi minuti, in queste ore si tratta ancora. Poi, capitolo Inter, è tornato a farsi sentire Zhang. Questo è Zhang, è quello vero che canta davanti ai dipendenti a Nanchino, i dipendenti di Suning. Me lo fate sentire ancora? Allora, giura Giorgio De Luca che non si tratta di playback, il video è virale, andatevelo a cercare su YouTube. L'Inter, che ha grossi problemi a chiudere il mercato, sta offrendo 5 milioni di euro all'Arsenal per prendersi Mustafi in prestito e pagare gli altri 25 poi. Parti però non vicine si sta trattando. Poi altre notizie di mercato: Paletta, dubbi ad accettare la Lazio in queste ore, sembrava una trattativa chiusa. La Lazio deve trovare anche il dopo Keita, ieri sera l'annuncio ufficiale al Monaco, potrebbe essere Gonçalves del Benfica, piace Niang però sta aspettando sempre il Torino, e comunque le trattative in uscita per Niang dal Milan in questi minuti non decollano, ma mancano 33 ore, noi siamo qui e magari cambierà qualcosa. Oggi è anche il primo vero giorno di Schick. Voglio salutare i tifosi della Roma, ciao a tutti e forza Roma. Ieri ha fatto le visite, ha firmato, poi con Marco Bellinazzo analizzeremo l'accordo tra Roma e Sampdoria, che secondo me è destinato a far scuola, dove vincono tutti, non solo Ferrero e non solo la Roma che si è preso il giocatore. Altre notizie velocissime: Zapata, conteso tra Sampdoria e Sassuolo, questo pomeriggio l'incontro tra Napoli e Sassuolo. Il Napoli vuole l'opzione per Berardi l'anno prossimo, per mandare Zapata quest'anno invece al Sassuolo. Poi mi fate sentire Pavoletti accolto come un re a Cagliari. Salutiamo tutti Borriello come tifosi del Cagliari. In questo calciomercato dei record anche il Cagliari ha fatto il suo record storico, carissimo Marco Bellinazzo, 10 milioni più 2 di bonus. Ultima notizia, non sono belle notizie, bollettino medico dalle nazionali, Cancelo è tornato a Milano. Ci sono voci che il suo infortunio potrebbe trattarsi di lesione al collaterale del ginocchio destro, con esami da ripetere tra 15 giorni e un'assenza che potrebbe anche essere superiore ai 2 mesi, di cui oggi si scriveva sui giornali, e si è fatto male anche Khedira in nazionale. Per il momento resta lì, ma ci sono esami da fare. Abbiamo chiuso, sì. Pier. Da dove vuoi partire? Da dove vogliamo partire? Io partirei da un numero. Abbiamo scherzato col Cagliari che ha fatto il record. Io ho fatto due conti sapendo che arrivava Marco Bellinazzo, non volevo farmi trovare impreparato. Sapete quanto hanno speso Mbappé compreso? I 5 campionati top d'Europa, il record di sempre. Hanno abbattuto il muro dei 4 miliardi, siamo lì, milione più, milione meno. Io non so se è una buona notizia, ditemelo voi. Beh, credo di sì, nel momento in cui si tratta, come dire, di soldi che restano all'interno del sistema e che permettono il sostentamento dei club minori, fermo restando però che questo record è dovuto, diciamo, a delle operazioni che sono da leggere ben oltre quello che è il campo, ben oltre quindi l'aspetto sportivo, e quindi c'è stata questa inflazione. Bisognerà capire se si trascinerà nei prossimi anni o se scoppierà. Mi sembra, adesso non voglio rubare il lavoro a Bellinazzo, che è 50 volte più bravo di me, mi sembra un meccanismo un po' inflattivo, no? Anche perché molto spesso poi le valutazioni dei giocatori sono anche, diciamo, virtuali, nel senso che quando ci sono degli scambi si stabilisce un valore ovviamente credibile per il giocatore, e poi si stabilisce la cifra del conguaglio. Però in generale io sono d'accordo, non mi sembra una cattiva notizia, nel senso che poi alla fine forse qualche volta è anche un segno di una certa ripresa, non lo so, non voglio farla più grossa di quello che è, una ripresa complessiva del sistema. Poi c'è ovviamente la droga, l'effetto droga che nasce da quello che sta facendo il Paris Saint-Germain, perché ovvio che il Paris Saint-Germain, insomma, si è preso il 10% forse del mercato mondiale quest'anno, sì, in termini di sì, costo. Sono 400 milioni con due operazioni, quindi più o meno siamo lì. Quindi capisci, un solo club su 100 che spende il 10%. Vi do una curiosità: l'anno scorso, sessione estiva, la Ligue 1 non era nelle prime 5, nei primi 5 campionati. No, non è prima, ha superato la Championship, è entrata nelle prime 5. Dobbiamo capire che la Ligue 1 è praticamente solo il Paris Saint-Germain a livello di numeri, però. Però è stato sufficiente per poi far crescere il Paris Saint-Germain tutto. E il Monaco che deriva, sì. prende i soldi e che ha fatto un gran colpo, poi ne parliamo, quello di Keita. Un ultimo dato, diciamo, che andrà poi analizzato quando avremo i numeri veri di questa edizione del calciomercato, e per quello prima parlavo di un aspetto positivo nella circolazione di soldi, è che nelle precedenti edizioni il volume degli scambi e quindi il valore di questi scambi è sempre cresciuto. Ora Giovanni ci diceva che abbiamo superato i 4 miliardi, ma è sempre cresciuto in questi anni. Il problema è che solo il 10-15% avveniva dietro un pagamento, quindi c'era effettivamente questa bolla. Ora, nel caso di quest'anno, ad occhio mi sembra che la percentuale in cui dietro le operazioni ci sia un reale pagamento dovrà crescere, perché appunto solo il Paris Saint-Germain ha messo in campo 400 milioni veri, e quindi a questo punto mi auguro che il livello economico cresca per evitare, diciamo, quella bolla di scambi carta contro carta che in Italia per esempio ha prodotto tanti danni negli anni passati. Sì, Italia che è poco sotto gli 800 milioni di euro e anche qui sta stabilendo un record rispetto alle ultime stagioni. Allora, su Twitter abbiamo lanciato un sondaggio, adesso lo rilancia anche il nostro Giorgio De Luca. Sondaggione aperto: chi deve assolutamente fare l'ultimo colpo di mercato? Juventus, Inter, Milan, Napoli, fin qui state votando per l'Inter. Io però, Marco Bellinazzo, voglio chiedere chi ha i soldi per fare l'ultimo colpo di mercato? Beh, Napoli. Devo dire sì, il Napoli si è ritrovato negli ultimi giorni a dover gestire questo extra budget legato alle cessioni. Il Napoli di solito arrivava a questo punto quasi dovendo regalare giocatori in esubero, invece con grazie a Pavoletti, a Zapata, magari a Strinic, metterà un po' di soldi in cascina. Il problema è capire se si è preparato per tempo un colpo, perché ricordando i precedenti e complessi affari che De Laurentiis mette in piedi, insomma 30 ore sono poche per fare un colpo nuovo. Secondo te chi ha bisogno, Pier? Ma guarda, il Napoli è la squadra più collaudata che ha deciso di puntare su questa sua forza, su questa sua amalgama, no? Si diceva una volta, su questo suo sistema consolidato, e quindi non è la squadra più difficilmente migliorabile. Non è un caso che abbia fatto una campagna acquisti abbastanza blanda, sia in acquisto che in uscita. Cioè, il vero mercato del Napoli è stato blindare dei giocatori che avevano delle grandi offerte, fargli dei contratti importanti e fare questo patto fra giocatori. Non so se Beninazzo è d'accordo. Assolutamente. Ma mi sembra che la cosa fondamentale sia questa. Vediamo come finisce. Assolutamente sì, Piero. Ti do la cosa di Reina, ma è questa roba qui, no? Ti do questo dato che l'incidenza di Mertens e Insigne, considerando i nuovi ingaggi, è di circa 20 milioni, no, all'ordo. E considerando questo in rapporto al fatturato strutturale del Napoli, cioè i soldi senza Champions, quelli che entrano ogni anno, insomma stadio, diritti TV, area commerciale, pesano circa il 14-15%. Ebbene, se facciamo lo stesso tipo di rapporto, nessun'altra coppia costa ugualmente alle squadre. Neymar e Suarez costano di meno. L'unica coppia che in questo momento costa di più è quella, diciamo, Mbappé, Neymar, Neymar Cavani al Paris Saint-Germain. Allora, vi faccio una carrellata di messaggi. Secondo me un attaccante in più alla Juve non farebbe male, questo scrive Dario. Poi Vincenzo, colpo di mercato obbligatorio per il Milan, scaricare Nianga al più presto, e sempre se ci riesce, perché poi ci sono anche le esigenze di bilancio. Poi c'è chi ci chiede di analizzare il colpo chic, chi ha vinto tra Ferrero e la Roma, adesso lo facciamo, magari dopo il traffico. Poi chiede un amico perché Montolivo non lo vuole nessuno. Montolivo farà il titolare probabilmente sabato sera in Spagna-Italia, e insomma io io ho l'impressione che sia anche l'ora di smetterla, di prendersela con Montolivo, oltre ai suoi demeriti. No, una cosa su Montolivo. Montolivo ha bisogno probabilmente di, innanzitutto, di togliersi questa etichetta addosso di giocatore o sopravvalutato, o comunque non troppo amato. E credo che sia l'anno giusto, nel senso che secondo me quest'anno lui parte ovviamente con meno aspettative, con meno centralità, meno titolarità, però io sono convinto che poi il suo spazio se lo potrebbe anche ritagliare. Cioè, il problema di Montolivo è stato che si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, cioè si è trovato a fare il titolare, in certi momenti il capitano, l'uomo simbolo, cioè quell'uomo che doveva fare il leader del tecnico, Milan peggiore degli ultimi 30 del anni. Milan peggiore, probabilmente senza averne neanche il talento, perché il Milan era abituato a giocatori di alto livello, cioè, però non è colpa sua. No, ma non è neanche colpa sua essersi fatto male e aver perso due delle ultime tre stagioni. Io credo che per Montolivo si debba portare rispetto, poi dopo tecnicamente lo si può criticare, ma si debba portare un rispetto che è mancato. Anche perché ha fatto anche cose importanti, cioè il Montolivo dell'Europeo in Polonia-Ucraina è un giocatore, no? Sì, poi assolutamente. Poi gli infortuni incidono, e soprattutto questo clima di incertezza su di lui, di scarsa fiducia su di lui, ma come ha pesato. Allora, abbiamo il traffico. Io ripeto i nostri numeri: 800 24 00 24, 349 2386 66. È inutile che ci scrivete, voi siete contro l'Inter. Se avete domande da fare, alzate il telefono, le fate e noi cerchiamo di rispondervi, e poi cerchiamo anche di chiamare un procuratore dopo il traffico. Vediamo. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. Allora, saluto Fabio Parisi, uno dei decani tra i procuratori, ormai si invecchia, dei procuratori italiani. Ciao Fabio, c'è Marco Bellinazzo, c'è Pierluigi Pardo. Dopo, allora, analizziamo bene chi ha fatto l'affare tra Ferrero e la Roma, nella vicenda chic. Perché è bella da leggere, secondo me farà scuola, leggeremo bene, capiremo come si sono accordate le due squadre. Secondo te, Fabio, chi ha più bisogno di fare nelle prossime 33 ore un colpo? Bella domanda. Io credo che l'Inter un giocatore lo deve prendere, anche perché, siccome sembra Cancelo resterà fuori per un pochino di tempo, un giocatore lo devono fare per forza davanti. Cioè, quindi uno davanti e a questo punto uno dietro. Perché poi c'è sempre il problema del difensore. Ma dietro non è neanche detto che lo facciano, perché se resta Ranocchia potrebbero anche restare così, dipende poi da che risorse la proprietà metterà a disposizione. Ma oggi la Juve, ho letto in questo momento che si è fatto male Carica, sì, che dire, però insomma ne hanno perché comunque hanno ancora Sturaro, anche se Marchisio è fermo, quindi magari a metà campo qualche problemino comincia a venire fuori, però insomma poi il problema è che aspetti che facciano qualcosa a metà campo Juve? Sì, bah, non lo so, ripeto, hanno Sturaro, hanno Bentancur, ne hanno, poi sai, tu dici ne faccio, però poi quando rientrano gli altri ti trovi con 1000 giocatori, questa è una cosa così. Voglio chiedere a tutti, perché siamo partiti dall'Inter, se mi dite se considerate un'anomalia o una virtù il fatto che l'Inter chiuderà il mercato con una rosa ristretta, avendo mandato via tanti degli esuberi, avendo magari qualche problema di numeri, perché l'abbiamo detto, a due difensori centrali più Ranocchi, eccetera. Che voto gli vogliamo dare finisse oggi, Pier? Ma io l'Inter la considero potenzialmente la terza forza del campionato, quindi il voto deve essere per forza alto. Mi ha impressionato l'impatto di Spalletti sulla squadra e tutto sommato la chiarezza e la semplicità di scenario che ha davanti a sé. Certo, qualcosa manca, mi pare che dal punto di vista del mercato sia arrivata un po' corta. Anche questi 5 milioni di prezzo di Mustafi significano evidentemente che le risorse sono quelle e si cerca di ferire qualcosa eventualmente all'anno prossimo. Per me l'Inter è cresciuta, il Milan è cresciuto, il Napoli è cresciuto rimanendo fermo, la Juve non si è indebolita, la Roma forse è tutto interrogativo fra le prime 5. Per me è un bel campionato. Cioè, la somma algebrica di queste cose che ho detto fa sì che sia un gran bel campionato. Che ci divertiamo. Tu Fabio, che voto gli dai all'Inter? Ma anch'io do un voto positivo all'Inter, perché comunque sono stati bravissimi nella scelta dell'allenatore. E l'allenatore è quello che ha sì pulito gli esuberi, ha dato così un'impronta alla squadra, ma non dimentichiamoci che è anche quello che ha rivitalizzato quello che c'era. perché Perisic sembrava un oggetto misterioso, doveva andare via la cosa, lo stesso Brozovic lì, João Mario ha dato il suo contributo. Insomma, ci sono delle il merito è questo. Spalletti è un allenatore che cioè non ha problemi a affrontare i giocatori mostrando i muscoli e facendo il cattivo, perché ha la personalità per farlo e ha messo in riga una cosa. La vedo forse un pochino così corta, però non dimentichiamoci che ha anche un impegno soltanto oltre la Coppa Italia, quindi penso che potranno gestire, sì, gestire bene la rosa. È sì, chiaro che in questo momento la vedo non molto, ma comunque abbastanza dipendente dalle prestazioni di Icardi. Beh, del resto quando hai un attaccante che segna quasi ogni pallone che tocca sei dipendente. Poi quello che si chiedono i tifosi dell'Inter è se questa difficoltà in attesa fino a un mese fa sia una questione temporale o si debbano rassegnare all'autofinanziamento anche con Suning. Beh, ma sai, l'autofinanziamento non significa che non verranno immesse risorse. L'autofinanziamento significa che dovrà crescere il fatturato prima di fare le spese. L'Inter, ricordiamo, ha scavallato il 30 giugno perché aveva un obbligo impellente, ma comunque è costretto ad avere i bilanci in ordine anche l'anno prossimo, e aveva un solo impegno. La decisione è stata quella di puntare su giocatori che c'erano in rosa con degli innesti mirati, senza spendere cifre eccessive come in passato. Suning ha già messo 400 milioni. Io credo che c'entri poco il fatto che il governo di Pechino abbia limitato gli investimenti sul calcio. Allora, Suning è un gruppo che fattura 50 miliardi all'anno. Che tipo di preoccupazioni potrebbero esserci per 100 milioni di spesa sul calciomercato? Non è quello il problema. Il problema è che Suning ha voluto dare un'impronta molto precisa, cioè un mercato razionale in funzione degli obiettivi che ci sono quest'anno, che è quello di tornare in Champions. Dopodiché si faranno determinate scelte e operazioni importanti. Ricordiamo anche che Suning aveva messo a disposizione dei soldi importanti, ma per operazioni, diciamo, che poi non sono andate in porta, non per colpa di Suning, cioè penso a Nainggolan, a Vidal, cioè a giocatori che veramente potevano cambiare. Sì, poi però c'è il passaggio che ti mancano 5 milioni per fare la questione di Schick e lo perdi per due o tre volte nel corso di un'estate. E giustamente, secondo me, il tifoso resta un attimino sorpreso. Quello è comprensibile. Volevo anche sentire Bellinazzo, perché questo tema dell'incremento dei ricavi, secondo me, è un tema importante. Noi qualche volta ce lo dimentichiamo, perché chiaramente ci piace di più parlare di calcio che di economia. Però quello che sta succedendo all'Inter e al Milan, cioè questo recupero di entusiasmo, e poi si traduce in cassi, botteghini, sponsor, cioè. Penso soprattutto al Milan, no? Ovviamente il Milan, l'abbiamo detto mille volte, sta giocando, ha fatto un po' il suo all-in, no? Si è presa un rischio, è vero che Fassone ha dichiarato che se poi non dovesse arrivare alla Champions qualcosa dovrebbe essere rivisto. Si è presa un rischio, ha messo tante risorse sul piatto, però ha anche fatto 60.000 più 60.000 nei due match di Europa League. Se cominciamo a contare i soldi, ha fatto 4 milioni in tre partite casalinghe, ti do io il totale. Ha fatto 4 milioni in tre partite. Cioè, comincia a sommare questa roba qui, fai un dato definitivo fra l'inizio e la fine dell'anno, e poi c'è un effettalone che si lega agli sponsor. Insomma, anche questo non va sottovalutato. Poi è ovvio, non è poi pensare di fare 300 milioni di euro in più all'anno di biglietteria, bisogna vedere i numeri, però l'idea di tornare a investire, perché attraverso una squadra forte poi arriveranno delle risorse, arriveranno dei ricavi, mi sembra giusta in economia. Io voglio fare una domanda secca, la faccio a Fabio Parisi, poi a Marco Bellinazzo sul Milan, che perché le parole di Fassone sono state molto chiare, da un certo punto di vista forse più preoccupanti per i tifosi che rassicuranti. E è una strategia giusta quella di giocare così a carte scoperte? Cioè, se non rimborsiamo il debito arriva quell'altro. Beh, sai, carte scoperte. Vendiamo un top player se non andiamo in Champions. Fino a un certo punto, perché insomma, almeno noi l'abbiamo sempre detto e chiarito qual era la situazione del Milan. Non per essere anti-milanisti, ma semplicemente perché questo è il quadro finanziario, questo è quello che emergeva dai contratti. Era evidente che se il Milan. Allora, il Milan si ritroverà in una situazione in cui ha 250 milioni di perdite negli ultimi tre anni e quindi deve essere sanzionato dalla UEFA. L'obiettivo del Milan è, da qui a primavera, quando le sanzioni vengono irrogate, quello di evitarle attraverso il voluntary agreement, cioè andare a Nione e dire: signori, abbiamo una squadra che patrimonialmente vale il doppio di quello che valeva prima, siamo secondi in classifica, terzi in classifica, l'anno prossimo andiamo in Champions, cresceranno i ricavi 150 milioni, dateci delle sanzioni ma minori, perché siamo una nuova proprietà e abbiamo un piano di rilancio serio. Questo, diciamo, è il grande obiettivo. alla, diciamo, riuscita di questo piano e quindi agli introiti maggiori che arriveranno, poi si lega il fatto che ci dovranno essere risorse sufficienti per pagare il prestito, altrimenti per chiudere la cena. Io credo, io non sono al corrente, così lo sento per sentito dire o per quello che ho letto, credo che Bellinazzo ne sappia qualcosa di più, ma il debito con Iliot non mi sembra sia del Milan. Metà e metà più o meno. Sì, il problema 180 credo sia in capo a Yongon Lee, e 120 qualcosa comunque, in capo a qualcosa. Però ripeto, sì, non è una bella ipotesi, ma io credo che debba essere apprezzata e non poco in un mondo dove invece si tende a nascondere, a nascondersi la chiarezza di Fassone, che ha detto: noi abbiamo fatto questo progetto, siamo partiti, cosa dovevamo fare? Dobbiamo resettare tutto. E la gente che probabilmente è al di fuori dalle dinamiche, come possiamo essere noi addetti ai lavori, cioè quando si dice che al Milan è stato resettato tutto, ma anche a livello di organizzazione societaria, di quasi di dipendenti, di altre cose, bisogna dare un periodo di rodaggio. È evidente che per far fronte alla situazione debitoria, al problema con l'UEFA e a tutto il resto, bisogna fare una campagna acquisti di grande impatto. Perché? Perché come sempre i risultati fanno la differenza. Se la squadra vince, se la squadra va bene, se è tornato entusiasmo, è tornato il pubblico, diventa molto più facile sia eventualmente andare a rinegoziare il debito con Iliot o con le banche o con qualsiasi altra cosa, sia andare di fronte all'UEFA a dire: signori, sì, trovare un accordo, onorevole. Anche perché la domanda è, la fa un amico, chiedo una risposta veloce a Marco Bellinazzo: il prossimo anno il mercato del Milan avrà gli stessi freni che ha l'Inter quest'anno? Dipende appunto dal voluntary agreement, da come verrà contrattato il voluntary agreement. Sta collegato, che te lo diremo nei prossimi mesi. Allora saluto Fabio Parisi, grazie Fabio. Ok, grazie a voi, alla prossima. Ciao, alla prossima. Riusciamo a fare almeno Angelo da Bologna. Angelo. Sì, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Le volevo solo dire, siete un po' faziosi a volte. Perché? Sì, dici? Con l'Inter ultimamente siete un po' faziosi. Ma perché siamo interisti o anti-interisti? No, non è questione di essere anti-interisti, qui è una questione diversa. Faccio un esempio stupido, no? Qualche mese fa, quando l'Inter era su Rodriguez, se vi ricordate, no? Sì, certo. Era un bollito, uno svincolato, un mezzo terzino, un finito. L'ha preso il Milan, ha fatto il colpo del secolo, ha preso un terzino pagandolo meno, quindi ha fatto il colpo del secolo. Cioè, tutte queste cose, no? Che sommate una a una, ti fanno pensare, non che ce l'avete con l'Inter, per l'amor di Dio, L'Inter non spende niente, mi sembra tanto anche quest'anno. Ha speso una settantina di milioni. Guarda, ho pronosticato il terzo posto l'Inter nel nostro giochino di inizio stagione. Ora lei dirà che, visto che perdo sempre con Capuano, forse questa non è una buona notizia. Però ecco, per me l'Inter, per come l'ho visto, prova a tirare giù le mani, se uno è tifoso dell'Inter. La terza forza del campionato, con un grande valore aggiunto che è legato all'allenatore. L'allenatore è un fuoriclasse, al netto ovviamente di una serie di cose che sono successe a Roma dal punto di vista ambientale e che hanno complicato il suo percorso, e che comunque sono un limite secondo me per un allenatore, lo dico senza se e senza ma, perché poi comunque secondo me hanno fatto male anche a lui. Che Spalletti sia tecnicamente un fuoriclasse non c'è dubbio, un valore aggiunto, e già si è visto come ha rimodellato la squadra, come la mette in campo. Quindi insomma, adesso non per autocitarci, poi abbiamo la borsa, poi intanto torniamo, siamo qui 800 24 00 24, ma tanti ci accusano di essere stati anti-interisti per mesi, per anni, e poi noi vi raccontavamo ad esempio che difficilmente sarebbero arrivati 4-5 top player all'Inter e voi vi arrabbiavate. Sono arrivati? No. Tirate voi le conseguenze. Arriviamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Tutti convocati. Perdo il sonno, anzi ti dico la verità, sono anche un po' eccitato, nel senso che mi piace andare a fare questa partita, e mi piace, vorrei avere due risultati su tre a disposizione, chiaramente, però anche il fatto di averne uno mi dà ulteriore eccitazione o comunque stimoli, quindi lo dà a me, presumo che le diano anche ai calciatori. Mi fa piacere quando sento parlare il mister di eccitazione, perché provo le stesse sensazioni quando ti confronti con i migliori giocatori e con le migliori squadre. È sempre, non deve essere mai motivo di paura, di timore, ma sempre motivo di esaltazione, perché puoi sempre fare, dare del tuo meglio. Siamo in tema di Conte alla rovescia, allora ne facciamo un altro. Mancano 3 giorni e 6 ore e qualche minuto a Spagna-Italia. Compie Luigi Pardo, Marco Bellinazzo, c'è anche Fulvio Colovati. Ciao Fulvio. Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a voi. Dico agli amici che stanno scrivendo, che adesso lo spieghiamo nei dettagli, l'affare Schick, perché hanno vinto tutti, secondo noi. Dateci qualche minuto, ma ci arriviamo. Allora, io ripeto quello che ho detto ieri, non sono eccitato come Ventura e Bonucci, ma ho delle sensazioni meravigliose, non so tu Fulvio. Io quando si tratta di andare a giocare al Bernabeu, permettimi di dire che sono eccitato. Poi dopo, vabbè, è in fronte alla Spagna, ma vabbè, insomma, secondo me sono segnali di ottimismo. Fa bene, secondo me, Ventura, vedere o infondere questo ottimismo a tutto l'ambiente, alla squadra, perché in fondo penso che l'Italia non abbia nulla da perdere. Perché male che vada, arrivi se rimani in secondo, per cui insomma, non andrei a giocare lo spareggio, per cui l'Italia giocherà a viso aperto. Secondo me, dal punto di vista tecnico, in fase offensiva ha qualcosa di più l'Italia in questo momento, per cui sono loro che secondo me ci devono temere, considerando che qualche debolezza difensiva ce l'hanno. Vabbè, la Spagna gioca bene, ha vinto nelle ultime competizioni, ne ha vinte 3 su 4, 2 su 3, però... Però a ottobre, nel momento peggiore nostro, non hanno vinto. E all'Europeo abbiamo vinto noi. E quindi, insomma, è difficile, però qualche carta ce l'abbiamo, no? Pier. Qualche carta ce l'abbiamo, secondo me arriviamo anche bene. Vi ricordate la discussione eterna e giusta di Ventura sulle date, il calendario, la preparazione? Alla fine arriva un compromesso e mi sembra che, complice anche il preliminare del Napoli, il preliminare del Milan, abbiamo una nazionale che arriva in buone condizioni. Che arriva in condizioni discrete, abbiamo giocatori che sono già in forma, penso a Insigne, penso a Buffon, penso allo stesso Immobile, insomma, sono tanti giocatori che stanno, che danno già la sensazione di essere, quindi Conte, Montolivo, certo. Quindi, sì, insomma, poi magari giocherà Spinazzola, che non ha neanche un minuto nelle gambe, ma adesso dopo fatemi chiedere a Fulvio Collovati da ex azzurro cosa ne pensa dell'idea che sia stato convocato uno che è in guerra col suo club e si è ammutinato. Fulvio, Tu sai che io in passato ho avuto un allenatore che insomma non l'avrebbe fatto. Ragionava di testa sua, a volte è andato anche, fatto delle scelte anche certamente non politiche, per cui insomma penso che dal punto di vista tecnico magari può essere una scelta non condivisibile, ma dal punto di vista del così emotivo del gruppo, così insomma, se ha una linea da mantenere. Ventura secondo me fa bene, ma ripeto, al Bernabeu deve andare con ottimismo, non puoi andare già depresso, pessimista, perché altrimenti già lo stadio è carismatico, ma ha un fascino particolare, per cui devi avere uno spirito particolare. È giusto che ci sia questo, ho sentito anche le parole di Bonucci, ci sia questo ottimismo, questa convinzione da parte dell'Italia che di poter fare un risultato positivo. Poi insomma da lì a dire la vittoria magari non lo so, però secondo me tutto questo è positivo. Allora vi leggo un tweet di Alessandro Alciato, inviato di Sky, dietro la nazionale questa mattina ha scritto: e se al Bernabeu nessuno tra Belotti, Candreva, Immobile e Insigne restasse in panchina? Io dico che Insigne non può star fuori, capisco che Belotti e Immobile è difficile tenerli fuori, Verratti serve, Candreva da equilibrio, chi è che aiuta a mettere insieme tutti i pezzi? Beh, la suggestione di Alciato è interessante, del resto è una partita da vincere e quindi bisogna andare offensivi, anche se poi secondo me, considerata la forza dell'avversario, pensare di giocare una partita senza equilibrio o comunque con poco equilibrio è impossibile, per cui penso che sia una bella suggestione. Io credo che Belotti ma è destinato a restare lì? Eh sì, io credo. Ma come fai a tenere fuori Insigne? Anche perché è quello che ha quattro partite nelle gambe, vere. Insigne gioca sicuro. E quindi sta fuori Immobile, sta fuori. Secondo me il ballottaggio è Belotti Immobile. Come logica, con Belotti magari favorito. È partita in corso, magari è partita in corso. Senz'altro, perché per caratteristiche Insigne è un giocatore che lo sappiamo ti dà un'enorme qualità offensiva, e però anche ha delle qualità in fase di copertura, cioè comunque è un giocatore in fase di non possesso, ti dà una mano. Candreva, se vogliamo, ancora di più. Insigne oltretutto è già in una condizione top simile a quella di Belotti e Immobile, quindi insomma Insigne gioca sicuro, e lì davanti c'è un ballottaggio credo con Belotti favorito. Però quello che dice Alciato, che poi sta lì per gli allenamenti, quindi sicuramente ne sa più di noi e ha la sensibilità per capire, che magari Ventura ci sta pensando, potrebbe essere anche un modo per provare a sorprendere la Spagna. Ci credi tu, Fulvio? Io dico che già con una difesa 5, con i tre, diciamo, la BBC e i due esterni, che non so se possono essere Conti o Spinazzola, non lo so. Potrebbero essere Conti e Darmian. O Darmian stesso, per cui già è un modo, una squadra che non è certamente scoperta. Ecco. Però, come diceva giustamente Pierluigi, io davanti non rinuncerei a Belotti e Insigne in questo momento, che sono gli uomini che sono più in condizione. Insomma, l'allenatore ha anche il dovere, al di là di gestire il gruppo, problemi di gestione, ma anche al dovere di far giocare quelli che in questo momento, giustamente tu dicevi, a settembre, a ottobre, non è il momento migliore della condizione dei calciatori, il nostro campionato comincia così, sempre un po' rilento, ma al dovere di far giocare quelli che sono più in forma, più ci vuole un po' di sana follia, Fulvio, ci vuole rapidità, ci vuole rapidità, ci vuole anche quel non so che di spregiudicatezza, giocare a Bernabeu. In questo momento sicuramente questi due giocatori, Insigne e Belotti, hanno qualcosa di più rispetto agli altri. A me piacerebbe tantissimo, un po' di sana follia. Grazie Fulvio. Grazie a voi. Ciao. Grazie a Fulvio Collovati. Ieri abbiamo parlato con quello che ha fatto l'ultimo gol italiano al Bernabeu, Alessandro Altobelli, in una partita di quelle che contano. Ovviamente parliamo di nazionale. Abbiamo un paio di minuti prima del traffico. Il contratto fra la Roma e la Samp per Schick, 5 milioni di prestito, poi 9 milioni da versare dopo febbraio nel caso di Schick abbia fatto un numero adeguato di prestazioni, poi bonus per un massimo di 8 milioni legati ai risultati della squadra e prestazioni del singolo. E poi, se la Roma si terrà il calciatore oltre il 1 febbraio 2020, andranno 20 milioni alla Sampdoria. Se lo venderà prima, la Sampdoria si prenderà il 50% di quanto incassato dalla Roma, con un minimo garantito di 20 milioni di euro. Io lo trovo un capolavoro. Beh, sicuramente innovativo, almeno in quest'ultima parte, in cui le due parti si assumono il rischio d'impresa, fermo restando che la Sampdoria ha 20 milioni assicurati, mentre la Roma potrà sperare in una rivalutazione del giocatore. Pier? È un'ottima soluzione. Tutti i contratti, questo vale anche ovviamente per i calciatori, tutti i contratti che sono in qualche modo a prestazione, che vengono tarati a seconda dell'effettivo rendimento di un giocatore, sono benedetti e benvenuti, e mi sembra che rappresentino, diciamo, la modernità. Non c'è niente di peggio per una società del dare i soldi a un calciatore e poi magari neanche per colpa sua si fa male, ma il contratto è quello e non c'è nient'altro da fare. Quindi mi sembra una scelta assolutamente giusta, il calciatore è di grandissima prospettiva, secondo me vale prospettiva anche più di Mbappé, tanto per essere chiari, come talento, è chiaro che è molto giovane, forse fa pensare più a una, appunto, una prospettiva 2-3 anni più che a una squadra pronta. Ma poi, insomma, è inutile che facciamo finta di non dirlo. C'è il problema che fra qualche mese dovrà riottenere l'idoneità, e questa è paradossalmente una soluzione che salvaguarda gli interessi di tutti. Sì, assolutamente. Sono d'accordo sulla win-win, come dicevi tu all'inizio. Cioè, sono d'accordo sul fatto che è una cosa equilibrata, che dà al calciatore una possibilità importante e ai due club la possibilità di prendersi un rischio, ovviamente, da Roma, e un introito sicuro la Samp, ma poi con una gradualità a seconda di ciò che il giocatore saprà fare. Tra l'altro, ponendo tutte queste condizioni, la Roma si mette anche in una situazione dal punto di vista del bilancio molto prudente, perché a mio avviso ci sono i margini per non dover far pesare tutto subito il contratto, perché quando si parla spesso di prestito con obbligo poi di acquisto, in realtà è una vendita mascherata, certo. E la UEFA impone comunque poi nella riclassificazione dei conti, esattamente, la UEFA impone in questi casi di fare un calcolo immediato, però se tu poni tutta una serie di condizioni che effettivamente sono tali da rendere aleatorio, no, il definirsi della vendita, la Roma potrà anche evidentemente sfuggire all'obbligo di dover mettere subito sui conti tutto il peso di questo affare. Scrive Sam su WhatsApp: più che innovazione mi pare una comproprietà mascherata. Non ha tutti i torti, le comproprietà non ci sono più dall'anno scorso, ma sappiamo che la fantasia non ha limiti. È una comproprietà mascherata dal punto di vista degli introiti finanziari, dal punto di vista finance, dal punto di vista tecnico non è una comproprietà, è un acquisto vero e proprio con dei paletti, però sì, è vero, è interessante. Comunque la Roma, tra cartolarizzazione dei crediti dei calciatori e questo tipo di contratto, insomma, ha fatto un po' scuola, insomma, in quest'estate, dobbiamo dirlo. Sì, assolutamente. Abbiamo il traffico, ciao Pier, a domani. Ciao. A domani, perché poi parliamo di basket, perché siamo anche all'immediata vigilia del via dell'europeo e vediamo con che speranze per la nostra nazionale. I love this game. Tutti convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Tutti convocati. Preparazione mi ricorda un pochino la preparazione dell'Europa 2013, dove eravamo un pochino acciaccati. Abbiamo fatto un brutto a livello di risultati pre-europeo e poi abbiamo iniziato molto bene facendo 5 vittorie e 0 sconfitte nel girone, arrivando ai quarti e perdendo solo all'ultimo tiro con la Lituania. Ma compattarsi adesso, secondo me, è quello che devono fare i ragazzi, che stanno facendo, che hanno già provato a fare le ultime due amichevoli. Sono cresciuti all'interno di una preparazione con non pochi guai, acciacchi fisici, cambi di, sicuramente l'acciacco di Danilo è stato il più importante, che ha levato tante opzioni a come era stato preparato, diciamo, il cammino verso l'europeo. Questa è la vigilia di Peppe Poeta. Domani cominciamo contro Israele, il nostro girone: Israele, Ucraina, Lituania, Germania e Georgia. Le prime quattro vanno alle fasi finali, noi giochiamo in Israele, quindi cominciamo con i padroni di casa. Fasi finali che saranno in Turchia e che sono il grande primo obiettivo di questa nazionale. Europei di basket che si vedranno su Sky Sport, e quindi rispondo a Daniele che ci ha mandato un messaggio al 349-238-6666. Avranno anche la voce di Andrea Meneghin. Ciao Andrea. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Va bene dire che il primo obiettivo è l'obiettivo arrivare alla fase finale? Sì, il primo obiettivo sicuramente per l'Italia è passare il girone. Situazione non facile, l'ultimo infortunio anche di Pascolo ha costretto Messina a chiamare Baldirossi per sostituirlo. E il precampionato d'Italia non è stato esaltante. Alcuni segnali positivi, incoraggianti, però c'è tanto da fare. L'assenza di Gallinari soprattutto peserà tantissimo. Però quando partiamo un po', diciamo, meno pomposi, meno appariscenti, più tranquilli, noi italiani riusciamo sempre a fare bene, quindi siamo fiduciosi, dipenderà molto dalle percentuali di tiro e soprattutto da come difenderà l'Italia con gli esterni a mettere pressione per evitare rifornimenti a lunghi avversari. L'ha scritto anche Dan Peterson questa mattina sulla Gazzetta dello Sport: l'Italia non è tra le favorite per una medaglia, ma non è un male, anzi è meglio, perché serve il profilo basso. Io però aggiungo che questa generazione bellissima, perché insomma non abbiamo mai avuto giocatori protagonisti nell'NBA, è veramente anche un po' sfigata, Andrea, perdonami. Sì, ci sono diversi episodi che fanno davvero pensare a questa cosa. Purtroppo non va mai bene quando ci deve essere la giocata giusta, quando ci deve essere la cosa giusta che ti può dare una mano, spesso è contro di noi. Negli ultimi europei una brutta gestione di un pallone, oppure anche una palla vagante, una non scelta non fatta nel momento giusto, ci è costata la semifinale. Un calcio, un europeo fatto benissimo. Quest'anno gli infortuni, le assenze, un po' anche la mala sorte non ha fatto ben ben sperare per l'inizio degli europei, però ripeto, giustamente bisogna partire con questo piede tranquilli e far dimostrare sul campo il proprio valore di squadra. Posso non essere d'accordo, diciamo, con la linea diciamo di Petrucci, che questa è la nazionale storicamente il maggior talento, perché per esempio io ricordo la nazionale di Meyers, Pittis, Fucca, lo stesso Meneghin, insomma, che non solo era pieno di talento ma ha anche vinto qualcosa. Non so se Meneghin ci può confortare in quest'ottica, insomma, anche quella è una nazionale molto molto sì, forte, senza andare poi dietro nel tempo. Sì, vabbè, insomma, siamo agli ultimi anni, a quella di cui abbiamo memoria, diciamo così. Ma guarda, di squadre con giocatori di talento in Italia ne abbiamo sempre avuti, ce ne sono sempre stati, forse le parole di Petrucci sono state un po' troppo caricate anche dalla stampa in maniera sbagliata, talentuosa, anche perché il fatto di avere così tanti giocatori, le prime volte che è stata detta questa frase avevamo 4 giocatori in NBA con la possibilità di avere un quinto che era Alessandro Gentile, che era nel mirino degli Houston Rockets, c'era da Tome, Melio, Bargnani, Bellinelli e Gallinari in NBA, quindi questo faceva pensare che il livello fosse altissimo. Purtroppo nelle competizioni, nelle squadre, nello sport di squadra, il risultato sul campo è quello che conta. Sì, si arriva da favoriti, si ha molto talento, però quando si ottiene un risultato, allora si fa quel passo definitivo per dire sì, questa è la squadra con più talento in assoluto. Però il risultato purtroppo è molto legato al fatto di bollare una squadra e di mettere un'etichetta a una squadra. Se torniamo indietro agli anni quando giocava papà, c'erano giocatori strepitosi e straordinari, c'era Marzorati, c'era Riva, c'era Villalta, Stacchetti, c'erano giocatori davvero entusiasmanti e non vengono ricordati con tutto questo talento, pur non essendo stati dei giocatori che hanno scritto pagine importantissime della pallacanestro italiana. Quando comandavamo in Europa o giù di lì. Sì, oddio, abbiamo comandato un paio di volte. abbiamo fatto. Sì, ma dico anche a livello di club, perché tu hai citato comunque anche persone, bravissimo, a partire da tuo padre, che hanno fatto la storia della Coppa dei Campioni, poi c'è Cantù. Sì, sicuro. Bravissimo. Roma, c'è stata Milano, tante squadre che hanno fatto la Virtus Bologna. La Fortitudo che è arrivata anche a giocarsi le Final Four, Treviso, voglio dire, ci sono state Pesaro, lo stesso che ha fatto benissimo in Europa negli anni passati, tradizione cestistica elevata, poi la crisi economica, anche il fatto che le squadre non possono più spendere così tanti soldi come in passato ha fatto sì che il livello non arrivasse più come adesso con le squadre turche, con le squadre greche o con le spagnole. Però di giocatori di talento effettivamente ne abbiamo e questo è una buona continuazione per la nostra storia italiana. L'importante è che arrivino dei risultati, perché è dal 2004 che non portiamo a casa una medaglia come a livello di nazionale. Sì, il vantaggio di questo europeo è che credo ci tolga la pressione che serve per andare ai mondiali o alle olimpiadi. Si gioca per questo europeo, punto e basta. Esatto. E vediamo come va a finire tra 2 settimane. Io ho meno di un minuto, mi dai un nome secco, qual è la squadra favorita, quella che dobbiamo seguire? Uno. Ma se, facilissimo. Spagna, Serbia, Spagna, Francia. Sicuramente soprattutto. Spagna soprattutto. E rivelazione potrebbe essere la Lettonia, che è una squadra che secondo me divertirà parecchio. Grazie Andrea, torniamo a disturbarti da qui alla finale in Turchia, tutto su Sky Sport. Non è in chiaro, ma insomma, per chi è amante del basket vale la pena. Noi ci dobbiamo fermare qui, Marco Bellinazzo. Ci sentiamo settimana prossima per assolutamente fare tutto il seguiremo queste anche del quante sono adesso 32 ore sono 32 ore e 5 minuti. Viviamo con l'ansia di questo countdown. Guarda, non se ne può più. Poi finalmente andiamo tutti a bere un tè caldo sotto la doccia. Ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Domani dopo il GR del 14 siamo qui. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.